Allora, ultima parte di Krautrock, seconda parte, altri suoni, 451 frammenti sonori, Città del Capo, Radio Metropolitana, ancora Jerry, Eliseo, Max e DJ Tetro per l'ultima parte e siamo nel contemporaneo. Contemporaneo e soprattutto concittadino, perché qua parliamo di un gruppo bolognese. Parliamo un attimo, visto che abbiamo due colonne storiche dell'alternative bolognese. Beh, Bologna col cosmico, perché c'è anche una storia particolare su Città del Capo, mi sa, no? Qualcuno che portò insomma i primi dischi cosmici degli anni 70. Assolutamente, sì, è stata la radio dove io ho iniziato ad ascoltare il cosmico, sinceramente. Tomasetta, sì, sospetto. Sì, Tomasetta fu assolutamente il primo. Mm-hmm. Sì, sì. Bologna come accolse all'epoca? C'era abbastanza giro, come legato sì, alla cosmici? Sì, secondo me sì, anche perché comunque sia, vabbè, insomma, eravamo alla fine degli anni 70, per cui era già in fase calante, però insomma tutta la cultura inizio anni 70 c'era assolutamente viva, i Can sono stati scoperti assolutamente qui. Senza anzi, dubbio. Là. Nella vecchia sede. Vabbè, comunque qui invece siamo di fronte a due ex New Waver che incidevano Italian Records come Surprise. Andarono anche a incidere per la Factory Benelux, erano i Surprise, Gianluca Pattini e Wood, che hanno costruito con Andrea Renzini questo nuovo progetto molto interessante, si chiama Volkver Folletto, un bellissimo disco uscito anche in una confezione veramente raffinata. Un progetto legato all'utilizzo del folletto come strumento musicale. Sono da vedere anche dal vivo perché oggettivamente questa cosa ha una sua valenza particolare. E questo è un brano che ha una chiarissima ispirazione krauta. Sì. Si intitola Gilera. Si sente. Storica moto, no? Storica moto. We'll be right back. E qui siamo tornati un po' indietro, sono i Noi nel loro quarto, quinto, no, nel loro falso album. No, questo è un progetto di Geoff Barrow dei Portishead, si chiamano Beak, un disco di qualche anno fa, e qui direi che non ci sono dubbi sulle influenze. Un omaggio. Un omaggio purissimo ad Allo Gallo. Una clonazione. Oh, Dopo Portishead siamo entrati in un personaggio un po' misterioso che si fa chiamare Baron Mordaunt, di cui si sa veramente poco, che ha fatto delle cose un po' a metà tra la techno e il kraut, direi. Sì. Baron Mordaunt da solo, un personaggio, ha fatto 4-5 dischi, mi sembra, 4-5 album, abbastanza anche difficili da reperire. Questo suono appunto tra il kraut e la wave, un ibrido, una fusione corretta, moderna di tutti questi suoni. Questo è da Symptoms, credo che sia ancora il suo ultimo lavoro del 2009. Del 2009, sì. E assolutamente in linea con tutto quello che abbiamo detto finora. Sì, beh, poi negli anni 90 ha poco ricordato il percorso suo che era tra techno e trip hop, tantissimi sì. progetti ha fatto, infatti collegati al suo nome trovate veramente cose anche decisamente interessanti. Allora, questi era Mordaunt Music e adesso invece passiamo a un progetto sicuramente molto particolare, interessante e indefinibile. Beh sì, andiamo probabilmente a prendere quelli da cui hanno tinto molto anche Mordaunt Music, ovvero Coil, che stranamente che stranamente alla fine degli anni 90 inventarono e poi lo proseguirono, insomma, come discorso fino ai nostri giorni. Purtroppo poi non esistono più i Coil, perché tutte e due sono scomparsi, prima Balance e poi Christofferson, purtroppo, e hanno reinventato negli anni zero, partendo appunto da qualche anno prima, fine anni 90, proprio un nuovo modo di intendere il cosmico, con una memoria molto forte, ma anche con quel senso appunto sperimentale che proveniva dalla musica industriale, quindi ben altra faccenda, anche se questa sera stiamo dimostrando poi che non c'era tutta questa distanza, no, tra Cabaret Voltaire, Throbbing Gristle e i cosmici. No, eh? Erano molto vicini, c'erano molti punti di contatto. Col passare degli anni certe cose si schiariscono, eh? Sì, ma perché all'epoca poi magari la vivevi con un occhio che ti sembravano vecchi gli altri e moderni quelli che stavi ascoltando in quel momento. Poi il tempo appiana molte cose. Sì, eh? Coil, quindi ci andiamo a prendere da Astral Disaster, gioiello appunto. Fantastico. Di quella splendida formazione. grassy beach of sand washed ashore. Mama, what can you see? Mama, what can you see? Allora, abbiamo interrotto un pochino con dei ritmi diversi il mondo un po' spettrale dei Coil, mantenendo le stesse atmosfere, però con questa base ritmica un po' anomala fatta da Moritz von Oswald, questo suo progetto Vertical Ascent, che incarna questa evoluzione, se vogliamo, quindi questa mescola. Von Oswald viene dalla techno, Maurizio Basic Channel, quindi la drum and bass, lui è stato uno dei primi a suonare questo genere e adesso ha trasferito la sua esperienza invece in questo mondo più trascendente, più sperimentale, con un progetto che è stato anche al Comunale a Bologna insieme a Carl Craig, che era il rifacimento del Bolero di Ravel, reinciso Deutsch Grammophon, tra l'altro. Quindi... Tra l'altro viene da una storica formazione degli anni 80, von Oswald, certo. Vero? Lui era Basic Channel, comunque è stato Maurizio, non come me, ma... Così sveli il tuo nome. Ho svelato il vero nome. Dietro Tretro c'è... Dietro c'è anche qualcosa. Come si chiama la formazione degli anni 80? Palais Chambourg, sì. Palais Chambourg, poi dopo è diventato nella scuola tecno... Dove c'era anche Thomas Feldman, esatto, tra l'altro, Thomas, no? Thomas Feldman, che poi si sono trasferiti tutti negli anni 90 in questa elettronica più selvaggia. Hanno fatto un percorso e oggi è diventato un musicista alternativo piuttosto importante, tre progetti molto belli, il Von Oswald Trio con Tristano al pianoforte anche. Sì, abbiamo quasi la contemporanea. Siamo alla contemporanea. Aspetti, sì. È sicuramente uno dei punti di riferimento adesso, assolutamente. Senza dubbio. Thank you. Allora, ancora alcuni rapidissimi assaggi di alcuni piccoli autori, piccoli perché sono sicuramente personaggi minori, che citano in maniera proprio smaccata i Cluster, i Noi e qualche volta i Tangerine Dream. Questo per esempio si fa chiamare René Hell, The Terminal Symphony, uscito nel 2011, si chiama Tal James Switcher, uscito comunque per la Type, dunque un'etichetta di tutto rispetto. E vabbè, insomma, qui siamo, non c'è bisogno di altro, basta semplicemente ascoltare un attimo proprio il ritorno completo di quel suono. E noi intanto salutiamo DJ Tetro che ci ha fatto compagnia anche buonanotte per a tutti, grazie, e ancora alla prossima, sicuramente alla prossima per qualche altro progetto. Oramai è diventato un affezionato, sì, dai, sì. Ci teniamo. Allora, un po' di René L e poi dopo seguirà un'altra cosa molto molto simile. Questo era l'omaggio di René Hell, così si fa chiamare questo James Switcher, con questo The Terminal Symphony, uscito nel 2011, e l'artista che segue subito dopo, che si fa chiamare Loop of Your Heart, anche questo qua è magari più tangerino come citazione, più che Cluster, è uno svedese, Alex Wilner, che è più noto sotto lo pseudonimo di The Fields come autore di musica sicuramente molto più techno, anche se anche lì non mancano i riferimenti alla musica kraut, però in questo progetto secondario ha voluto proprio fare un chiarissimo omaggio a tutto ciò che appunto Cluster e Tangerine, e chiaramente lo possiamo già sentire da questo brano. qui c'era anche in terminale un piccolo assaggio, anche forse una citazione di Conrad Schnitzler, questo Loop of Your Heart. Alex Wilner ha sicuramente fatto un'ottima citazione di questi autori. E l'ultimo, forse per quanto riguarda questa parte un po' più ritmica, di autori contemporanei che citano in qualche modo e si ispirano a noi, Kraftwerk, e in questo caso più forse Manuel Götzsching, quello dei brani più ipnotici per chitarra e 2-4 che abbiamo ascoltato la volta scorsa, sempre in questa prima puntata. Questo è Jonas Reinhardt, che a dispetto del nome è un americano che ha inciso questo lavoro per la Cranky, niente di meno. Power of Audition 2010, il brano Orbiter, ancora citazioni chiare dal Cosmische in questo caso. Thank you. Bene, dicevamo che questi ultimi autori sono molto ligi alla scuola, hanno imparato bene la lezione ma non aggiungono forse nulla di nuovo. Sì, direi quasi che siamo su un suono revival, con tutta la fascinazione anche che c'è dietro queste sonorità, che in effetti due trasmissioni e molte altre poi verranno, perché insomma molte cose cosmiche influenzate da quelle metteremo sia a 451 che altri suoni, immagino, no? E le abbiamo messe anche in passato, ma qua sì, andiamo su un terreno molto vicino, insomma, ossequioso rispetto al passato. Invece qualcosa di forse un po' più originale, sempre ispirato a, ma con qualche spessore in più, sono sicuramente gli Emeralds, che sono tra i gruppi più importanti insieme a One Trick Point Never per quanto riguarda una citazione corretta, ma con un po' di sugo in più, diciamo così. Originalità. Sì, molto, molto più originali, sonorità molto morbide anche qua, che ci permettono a questo punto di lasciare un po' tutti questi ritmi più frenetici per entrare in qualcosa di molto più morbido, molto più spaziale, per quest'ultimissima parte di questo Krautrock seconda puntata. Ancora dunque Emeralds, questo se non sbaglio è del 2010, Does It Look I'm Here. Thank you. adesso siamo passati dal splendido lavoro degli Emeralds a un progetto invece non particolarmente conosciuto ma molto interessante. Siamo in Europa, in particolar modo in Finlandia, terra sempre abbastanza affascinante, misteriosa per molti versi, e troviamo questo personaggio S, che ha iniziato la sua produzione musicale nell'inizio degli anni zero e ha realizzato poi questo splendido album che ora stiamo mandando in onda, un brano da questo album che è Kesaman Lapset del 2009. Chiari riferimenti alla cosmica, alla musica cosmica, in particolare il riferimento, almeno a detta dello stesso personaggio, è Terry Riley, che è un po' il suo punto di riferimento, però sviluppa una sonorità, delle linee cosmiche molto interessanti, perché si rifà certamente a un certo tipo di atmosfera degli anni 70, però la rielabora all'interno della cornice degli anni zero in maniera estremamente personale. Ora stiamo sentendo un frammento con dei piani, con un piano acustico che poi si sviluppa in una dinamica che mixa sia l'elemento cosmico che quello minimalista, e lo ascoltiamo a questo punto una parte, perché il brano è piuttosto lungo, e poi continueremo su questo versante sempre tra gli autori e i progetti degli anni zero. Thank you. e siamo adesso rientrati un po' anche come sonorità, come sviluppi armonici proprio negli anni 70. Il richiamo è abbastanza chiaro, ARP, che è progetto di un musicista americano in realtà di San Francisco, però di origini greche. Il nome, insomma, è tutto un programma. Alex Georgopoulos, credo che non ci siano molti dubbi, musicista che ha voluto farsi chiamare come progetto ARP in ricordo, in onore del grande Jens ARP. Grande perché? Perché è stato il costruttore di uno dei più importanti sintetizzatori degli anni 70, l'ARP. Mitico l'ARP Odyssey, sì, che veniva utilizzato da moltissimi musicisti cosmici. Anche da Franco Battiato, tra l'altro. E anche da Franco Battiato, da tanti altri musicisti che abbiamo trattato nella prima parte, ma anche in questa seconda parte. E ha costruito questo progetto che è un chiaro ricordo e riferimento a quel periodo storico, però la capacità, secondo me, di ARP è stata anche quella comunque di saper inserire questi suoni all'interno di una dimensione degli anni zero, perché comunque il suono è curato in maniera differente, seppur utilizza strumentazioni vintage, così molti utilizzano sto termine vintage. Ascoltiamocelo ancora da The Soft Wave, che è un disco splendido del 2010. Bene, stiamo concludendo in bellezza, direi, sempre più cosmici. Eh sì, siamo poi atterrati in una terra che precosmica, la California, California che ricorda le onde, le buone vibrazioni, no? Della psichedelia, appunto, nate in quella terra, e sia con Arp che con James Ferrando, che abbiamo ancora in sottofondo, si va proprio a ritrovare quella mente psichedelica, con tanto però appunto di riflessione su quello che negli anni 70 si è fatto in Germania. Tra l'altro molto strana la faccenda americana, sia a Los Angeles, a San Francisco, che a New York, perché quasi tutti questi personaggi, James Ferraro viene da Skaters, oppure se pensiamo a Lopatin, le prime cose, o anche Emeralds, vengono da sonorità molto brutali, rumoriste, il nuovo noise americano, e poi si è trasformata pian pianino in questa nuova forma eterea, quindi una rilettura psichedelica, ma con appunto quella voglia di recuperare quella cosmicità che insomma porta veramente bene a queste progettualità. E allora, dopo James Ferraro, ci stava bene questo progetto molto particolare, si chiamano Dadaistic Orchestra, appena uscito verso la fine del 2011. Dietro questo nome si celano dei nomi storici, perché Black Dog sono i precursori dei Plaid, dunque piena EDM, ritmi obliqui e soprattutto Psychic Warrior of Gaia. Storici della trance techno. Sì, e invece qui fanno una cosa molto più eterea, molto più veramente soffusa e ispirata appunto a queste parti più cosmiche proprio del kraut in assoluto. Direi che siamo quasi in chiusura di trasmissione a questo punto, visto l'ora. Salutiamo sul prossimo progetto, direi, no? Sì. Ascoltiamo un po' di questo, poi vi salutiamo. Thank you. Document 2, questo splendido lavoro da parte di una delle formazioni più interessanti di quest'ultimo periodo. Assolutamente una sorpresa, anche perché viene da autori che fanno tutt'altro proprio, per cui ottima conferma comunque di persone che sanno quello che fanno. E per finire, una stella, come dire, cosmica, appunto a questo punto ci vuole, e, John Chantler, uno dei dischi di Wire 2011, Luminous Ground, veramente disco molto molto ispirato, qua si sente molto l'influenza dei cosmici, però appunto viene presa una strada molto originale, molto particolare, in tra l'altro quel sud di Londra dove è nato il dubstep e dove si sta scardificando quella ritmica, si sta arrivando anche a certe sonorità paradossalmente cosmiche, come appunto in questo caso John Chantler. Sì, infatti non a caso esce per la Room 40, che è una di quelle etichette proprio che hanno ampliato molto il catalogo grazie a questi artisti che si rifanno molto alla parte proprio più ambient della cosmica. Salutiamo a sto punto. Sì. Direi di sì, direi che mandiamo la sorpresina. Abbiamo dato come sigla finale, manderemo una sorpresina. Sì, la sorpresina ci ha accompagnato sti giorni. Infatti. Anzi, ste puntate, due. Va bene, allora chiudiamo con Chantler. Allora, un saluto. Sigla. Saluti a tutti. Un saluto da 451 e anche da altri suoni che ritorneranno nei loro ranghi la prossima settimana. Poi comunque ritorneremo in altre performance comunitarie, vediamo un po' cosa succede. Ormai la strada è aperta. La strada è aperta, basta continuare a percorrerla. Sì, non ci sbaniamo però. Allora, buon ascolto e buonanotte a tutti. Buonanotte. Ciao.